vedere che era meglio restare fermi, come le piante carnivore, come gli scogli. Ci siamo avvicinati e son rimasti segni, i segni di chi ferma i sonnambuli. Spero davvero che tu riesca a ricordarmi sempre. Se non ci riesci avrai i tuoi argomenti, vivere gli abbandoni come sacramenti, con l'anima ridotta in coriandoli. Amare è un talento, potrei non averlo, potrei fallire facendo del mio meglio. Ci sono comete che volano basse, nessuno le vede o dà loro un nome. Ci sono comete che sembrano pazze, ma cercano un cielo per stare da sole. Vuoi vedere che era meglio restare spenti, come camini a Milano, fuochi nei boschi, contraddetti dai nostri stessi giuramenti, correre cercando gli ostacoli. Spero davvero che tu riesca a ricordarmi sempre. Se non ci riesci avrai i tuoi argomenti, vivere gli abbandoni come sacramenti, con l'anima ridotta in coriandoli. Amare è un talento, e chi l'ha scoperto, sia presto che tardi, che brutto momento. Ci sono comete che volano basse, nessuno le vede o dà loro un nome. Ci sono comete che sembrano pazze, ma cercano un cielo per stare da sole. Ci sono comete che volano basse, ci sono comete che volano.